Il caffè della domenica di Maria Latella. Buona domenica, buon caffè. Questa mattina il caffè lo prendiamo con un ospite che può dare parecchie risposte a tanti di voi che ci seguite e che in queste ore cercate di capire che cosa arriverà dal governo per le vostre attività che hanno avuto un danno in questi ritorni di ondate della pandemia, o per le vostre attività che addirittura chiudono. Parliamo di tassisti, di conducenti NCC, di trainer di una palestra, insomma. Buongiorno, buona domenica, benvenuta Laura Castelli, vice ministro dell'economia. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Spero che abbia preso un caffè bello tonico, perché parliamo di cose che interessano, come lei sa, una grande parte di cittadini italiani. E intanto, appunto, le voglio chiedere questo. L'altra notte avete licenziato l'ultimo decreto ristori, che, se non sbaglio, insieme a quello precedente arriva fino a 5 miliardi di contributi che verranno dati a tante categorie. Le posso chiedere di fare qualche esempio? Cosa arriverà, per esempio, al proprietario di un ristorante che ora è chiuso perché è in zona rossa, o a un taxista, o al trainer di una palestra? Sono categorie diverse. Sì, allora, intanto questo secondo decreto ristori bis si aggiunge al precedente, che ha già dato i ristori per chi subiva una riduzione di orario o comunque una chiusura. Quindi, fermo restando quel DPCM che ha generato il primo ristori si aggiunge questo, quindi si aggiunge anche nelle categorie. Abbiamo coperto tutte le categorie che sono costrette a chiudere, con le differenze tra, come avete visto, zone rosse, zone arancioni e le zone gialle. Quindi i ristoratori che lei ha citato, tutti quelli che organizzano fiere, i tassisti sono stati inseriti. Abbiamo fatto questo lavoro Ateco per Ateco, codici Ateco, sono questi i codici con cui si attenzionano queste categorie, e a loro abbiamo dato il doppio di quello che avevano preso durante il lockdown, quindi legato al calo di fatturato mese su mese. Io credo, e stiamo lavorando come Movimento 5 Stelle su questo, che nelle prossime settimane, insomma a breve, vada fatto un passo in più, cioè ci sono delle attività che non sono state chiuse per DPCM, ma che stanno subendo lo stesso tantissimi cali di fatturato molto pesanti. Su di loro stiamo immaginando una misura che possa dare un ristoro, perché è vero che non è stato chiuso direttamente, ma se hai comunque un fortissimo calo di fatturato, stiamo immaginando di poterli aiutare con una cosa, ecco, questa, delicata. Questa è una notizia, Vice Ministro Castelli. Allora, cerco di approfondire. Ho un negozio di abbigliamento che rimane aperto perché non sono in una regione rossa, ma vuoi per la crisi, vuoi perché la gente non c'ha tanta voglia di comprare, ho subito un calo notevole nel fatturato. Che cosa state pensando di darmi, a me commerciante che comunque pur aperto vedo il mio negozio deserto quasi? Ecco, le ripeto, come Movimento 5 Stelle stiamo cercando di costruire una misura che dia un ristoro appunto per chi è rimasto aperto ma ha subito comunque un notevole calo di fatturato. Questo perché in queste ore comunque stiamo vedendo quello che succede, l'abbiamo già vissuto durante il lockdown, però era una chiusura totale su tutto. Questo momento è più delicato, cioè aver scelto di differenziare aperture e chiusure, di non bloccare tutto, ci deve obbligare anche a pensare soluzioni nuove passo dopo passo, che mi faccia dire è quello che abbiamo imparato di più in questa emergenza, cioè ragionare e fare passo dopo passo. La tensione sociale è molta, io leggo, scrivo, mi chiamano moltissime attività, siamo tutti molto stanchi, i commercianti, sì, tutte le attività sono molto stanche, però quello che io voglio dire è che a cose straordinarie vanno immaginate soluzioni straordinarie, e quello che stiamo facendo è questo: mano a mano che emergono necessità nuove, tocca a noi il dovere di trovare soluzioni nuove e anche, come dire, coraggiose. Senta, Laura Castelli, ovviamente quello che conta è anche l'esecuzione del contenuto della norma. Sappiamo che l'Agenzia delle Entrate ha inviato i primi bonifici alle aziende che avevano subito restrizioni del penultimo DPCM, ma ci può dare un timing? Cioè, quando prenderanno i soldi le categorie per le quali avete provveduto ai ristori in questo ultimo decreto? Allora, questo ultimo decreto è stato vagliato veramente poche ore fa. Quello che noi abbiamo assicurato e abbiamo tenuto come principio cardine è di utilizzare ciò che è stato veloce, rapido e immediato. Per questo abbiamo scelto i ristori con il fondo perduto, che era già stata una misura molto innovativa. Noi, lo dico sempre, siamo trovati dentro un'emergenza con un paese antico, lento e ingiustificatamente fermo, immobile, quando c'è bisogno di trovare soluzioni nuove. Ma ci siamo riusciti grazie all'Agenzia delle Entrate, al Ministero dell'Economia, al Ministero dello Sviluppo Economico, e abbiamo inventato uno strumento nuovo che per la prima volta è stato messo in piedi, questo del fondo perduto, un metodo automatico col quale l'Agenzia delle Entrate, con i dati che ha, assorbe i dati necessari riguardanti i fatturati e da solo calcola qual è il diritto rispetto alla norma, ecco, rispetto al ristoro. Questo ci ha permesso di fare molto molto molto veloce. Quindi Vice Ministro, sì. Volevo chiederle questo: i soldi da qualche parte bisogna trovarli, no? Allora, ci si chiede se li troverete modificando la manovra, per esempio, che ne so, revocando il provvedimento che prevedeva il taglio dei contributi del 30% alle imprese del Mezzogiorno, oppure togliendo gli incentivi ai pagamenti digitali, che è invece una cosa che ridurrebbe di molto l'evasione. Interverrete, modificherete quello che avevate previsto per la manovra per trovare i soldi, oppure l'alternativa è fare deficit? Non c'è una terza ipotesi, no? Guardi, le scelte che abbiamo fatto sulla manovra erano già state fatte in un momento di totale consapevolezza di emergenza, quindi abbiamo voluto fortemente una manovra che avesse dei punti saldi. Lei ne ha citati alcuni: le misure di decontribuzione agli under 35 per noi è una misura necessaria, che è ottima sulla ripartenza ed è ottima per continuare ad avere una riduzione del costo del lavoro, che è un dramma ancora in questo paese. Quindi queste misure si tengono, ma si tengono tutte. Noi abbiamo voluto fortemente come Movimento 5 Stelle, e c'è oggi nella manovra del 2021, un fondo da 4 miliardi per l'emergenza del Covid, e poi si farà tutto quello che sarà necessario come abbiamo fatto durante il 2020. Quindi la manovra non si tocca? No, ma non ce n'è bisogno, ripeto, l'abbiamo già scritta con, come dire, l'occhio che guardava a un'eventuale necessità di risorse. Per questo abbiamo messo già da parte 4 miliardi per le emergenze del Covid, e ripeto, se ce ne saranno bisogno di altre, mi auguro di no, perché mi auguro che siamo agli ultimi minuti e ho ancora qualche domanda. Le chiedo una risposta molto secca, anche se il tema è di quelli che producono lunghi dibattiti: quando mai faremo una riforma sanitaria importante come quella che il Covid ci ha aperto gli occhi è importantissimo fare in questo paese, senza i 37 miliardi del MES? Il MES è uno strumento di finanziamento, non è un desiderato, non è un assegno per fare cose nuove. Questo è bene che tutti lo capiamo. Non è quello che hanno voluto raccontare certe forze politiche per molto tempo. Poi questo Covid ha fatto vedere delle cose che forse soprattutto una parte di politica che ha governato per troppi anni non ha mai voluto affrontare. Oggi ne tiriamo le conclusioni. Io credo che questo governo sia in grado di far tesoro rispetto a quello che ha imparato e mettere a punto un sistema sanitario degno di questo paese. Senza ricorrere al MES. È uno strumento di finanziamento, ripeto, non è un libro dei sogni o un modo per fare altre cose. Comunque, quindi ci si può pensare se la situazione è drammatica, come è drammatica? A che cosa? Al MES. No, noi non vogliamo usare questo strumento, è uno strumento che non è utile, lo abbiamo detto in tutti i modi, dobbiamo smettere di pensare che su questo tema dobbiamo dividere le forze politiche. Questo è uno strumento di finanziamento che non è vantaggioso, quindi stiamo parlando di una cosa che non serve per scrivere una riforma futura, serve per finanziare cose già fatte, ma non è conveniente come strumento di finanziamento. Ho capito. Capitolo regioni, c'è stato un incontro in videoconferenza tra ministri e presidenti di regione, dopo il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella, mi sembra che le polemiche tra governo centrale e regioni si siano attutite. Resta la voce di De Luca che protesta perché i congedi retribuiti per genitori con figli a casa ci sono solo per le zone rosse. Ha ragione De Luca o ha torto? Ma guardi, dovremmo tutti guardare nell'ottica che stiamo facendo il massimo possibile, non è che uno decide di fare il bonus babysitter agli autonomi solo per le zone rosse perché è brutto e cattivo, perché si cerca di bilanciare un sistema che, ripeto, fa acqua da tutte le parti, anche per colpa di cose che non sono state fatte da altre istituzioni, penso alle regioni, penso al fatto che in alcune regioni siamo arrivati alle zone rosse perché non sono state fatte delle cose per me gravissime, per cui io credo che la difficoltà e la collaborazione di tutti sia l'unica cosa da tenere presente. Non stiamo vivendo un momento facile, non è facile per nessuno. Se ci si comincia a dividere o a continuare a voler fare propaganda, non si va da nessuna parte. L'ha detto anche il presidente Mattarella. Senta, l'ultima cosa, il Copasir ha approvato all'unanimità una relazione che segnala l'interesse di stati stranieri rispetto alle nostre banche e alle nostre assicurazioni. Testo, ripeto, approvato all'unanimità, quindi anche con il voto dei 5 Stelle e quello del Partito Democratico. Pensa anche lei che con la crisi economica che ha acuito i problemi in Italia, alcuni nostri asset possano diventare più a portata di mano di acquisizioni straniere? Per questo governo ha rafforzato la Golden Power già nei mesi precedenti, già prima del Covid. È una storia di sempre, spesso la raccontiamo, spesso anche lei ce la propone come dibattito. Io credo che siamo in un momento importante, le nostre aziende vanno tutelate come sempre si sarebbe dovuto fare. Usciamo da anni in cui si è fatto troppo poco, e abbiamo degli grandi asset strategici in Italia. Noi con Cassa Depositi e Prestiti abbiamo fatto delle grosse operazioni su asset strategici importanti che abbiamo riportato in Italia, e chiaramente non saranno gli ultimi. Poi ci sono delle cose che vanno invece ragionate, io credo, anche a livello più europeo come asset strategico, ma questo è un governo che sta facendo di tutto. Penso ai prodotti che abbiamo messo in piedi con il decreto liquidità per SACE, per SIMES, per CDP, che sono strumenti non solo di sostegno alle aziende, ma sono operazioni forti che permettono alle aziende italiane di tenersi molto strutturate, molto finanziarsi bene. Abbiamo finito il nostro tempo, ci sarebbero ovviamente decine di domande, ma il caffè della domenica è un caffè che va giù veloce. Allora, buona domenica, Laura Castelli, viceministro dell'economia, che è stata con noi questa domenica. Io la saluto e noi ci risentiamo tra pochissimo con Nessuna è perfetta, parleremo di un tema molto molto importante, l'effetto Covid sulla nostra psiche, sulle nostre depressioni. A tra poco.